Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Alcuni dei maggiori filosofi sono state persone spregevoli. Per esempio, Rousseau abbandonò i suoi 5 figli all'orfanotrofio prima di scrivere L'Emilio, il suo trattato sull'educazione. La mia paura è che se ci concentriamo troppo sulle vite di molti filosofi, potremmo riempirci di pregiudizi contro il loro lavoro. Queste parole di Sandra Hinchman, professoressa di scienze politiche all'Università di St. Lawrence di Canton, New York, sono preziose per aiutarci a comprendere la complessa relazione che lega i due protagonisti di oggi di Destini incrociati. Perché oggi si parla di filosofia e di filosofi, e per iniziare del filosofo che con il suo pensiero ha caratterizzato di più il secolo appena passato. Un signore con la tranquilla apparenza dell'uomo di campagna, che per anni ha vissuto nella maestosa bellezza della Foresta Nera, nel cuore della Germania, ma che come quell'immensa selva non ha mai rivelato cosa si nascondesse nella sua parte più oscura e remota. Il suo nome è Martin Heidegger. Martin Heidegger. Chi pensa in grande, spesso compie anche grandi errori. Queste parole sono di Martin Heidegger e forse spiegano con la loro semplicità il cuore della questione. Perché la domanda è: com'è possibile che uno dei massimi pensatori dell'età moderna, considerato un innovatore senza pari, capace di sovvertire la tradizione filosofica, sia invece stato capace di abbracciare in modo retrivo e ottuso il pensiero nazionalsocialista che in quel periodo si propagò in tutta la Germania, accodandosi al carro da cui Hitler arringava istericamente il popolo tedesco? In altre parole, è possibile separare biografia e pensiero? La domanda forse non troverà mai una risposta precisa, che è seppellita con Heidegger. Ma quello che ci è possibile è cercare di ricostruire il mondo del filosofo, compreso l'incontro con una persona che non solo ha determinato la sua esistenza, ma decenni dopo l'ha aiutato ad attenuare, se non a cancellare, i terribili errori politici del suo passato. Aveva carisma. E ho spesso notato quanto sia difficile per chi possiede un carisma così potente riuscire a non utilizzarlo per un cattivo scopo. Queste parole sono di Hans-Georg Adamar, un altro famosissimo filosofo tedesco morto a 102 anni nel 2002, che ha avuto il privilegio di essere in gioventù uno degli allievi prediletti di Heidegger. Affascinato dalla personalità del suo professore, Gadamer ha condotto una sua personale indagine nel passato di Heidegger, andando a cercare nel suo paese natale chi lo aveva conosciuto. Fermai un vecchio per strada e gli chiesi: com'era il professor Heidegger? Lei deve averlo conosciuto da piccolo. E quello: Martin? Certo che lo conoscevo. E com'era? Gli chiesi. E lui: era il più piccolo, il più debole, il più rumoroso e il più inutile fra noi, ma comandava tutti a bacchetta. Il piccolo Martin nasce in un paese del Baden-Württemberg, a poca distanza dal confine svizzero. Al tempo di Heidegger, il paesino di Meskirch conta poche migliaia di anime, molti pascoli e una bella chiesa cattolica, la chiesa di San Martin, che ha regalato alla famiglia Heidegger, oltre al nome del figlio, anche ricovero per lo spirito e conforto dell'anima. Lo stesso Martin vi serve messa ogni domenica, mentre suo padre Friedrich ne è il sagrestano. Fritz Heidegger ha trascorso la vita intera a Meskirch, dove era una figura molto popolare, un uomo intelligente a cui piaceva dire il fatto suo. Persino durante gli anni bui del nazionalsocialismo continuò a esprimersi liberamente, tanto da crearsi qualche problema con il sistema. Come si può dedurre dalle parole dell'attuale sindaco di Meskirch, Arne Zwick, la figura del padre di Martin è così popolare che ancora oggi il suo ricordo è vivo nelle menti dei paesani. Del resto, il filosofo non ha mai nascosto di essere cresciuto in una famiglia tranquilla dove non è mai mancato il pane e la sicurezza del domani, anche se gli Heidegger non sono sufficientemente ricchi da mandare il figlio all'università. Come cattolici osservanti provano a ripiegare sul seminario gesuita, sperando che Martin possa diventare un giorno o l'altro un bravo prete. Ma la salute del ragazzo non gli permette di venire accettato dal collegio. Riesce lo stesso a entrare in università, dapprima a teologia e in seguito a filosofia. Il responsabile principale dell'abbandono di Heidegger dello studio della teologia in favore della filosofia è Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia. In questo ragazzo dall'aspetto serio, nonostante il baffetto un po' troppo curato, vede uno studente così dotato da desiderare di farne il suo successore. Husserl prende Heidegger sotto la sua ala protettrice e ne segue i passi, dalla laurea al dottorato, fino a farne il suo assistente nel 1916. Una generosità che, come vedremo, non sarà ricambiata. In breve Heidegger diventa professore e si distingue non solo per il lavoro intenso che svolge in università, ma soprattutto per la qualità del suo pensiero. Aveva sempre un po' l'aria del tuttofare, come se fosse un operaio o qualcosa del genere, ma i suoi occhi, potevo scorgere in essi una grande immaginazione, molto più che in quelli di Husserl o di quelli di altri grandi filosofi come Paul Nathorp. Hans-Georg Gadamer non è l'unico allievo illustre di Heidegger a ricordare l'incredibile energia creativa che sprigionava dal suo professore. Fra gli incontri di quegli anni, Heidegger ne fa uno che determinerà la gran parte della sua vita e probabilmente molte delle sue pessime scelte future, anche se nasce come un incontro d'amore. Nel 1917 Heidegger sposa Elfriede Petri, una studentessa di economia che conosce nel 1915 quando lei frequenta qualcuna delle sue lezioni. Elfriede è bella e fra le sue qualità c'è soprattutto quella di votarsi immediatamente a Martin. Come non comprenderla? Suo marito si sta velocemente trasformando nell'eminenza grigia del mondo filosofico tedesco dei primi anni 20, un professore stimato e ascoltato anche fuori il mondo accademico. Quello che invece proprio non si spiega è come abbia fatto Heidegger a unirsi a una donna come Elfriede, fieramente antisemita, e con l'avvento del Partito Nazionalsocialista, una seguace di Hitler della prima ora con il mito della razza ariana. Severa, protestante, dura, pratica, Elfriede resterà la compagna di Heidegger per tutta la vita, condizionandone le scelte più importanti. Resta da chiedersi se per caso molte delle caratteristiche negative della moglie non si trovassero già in nuce nell'animo del filosofo. Quando nel 1919 nasce il primo figlio Jörg, seguito un anno dopo dal piccolo Hermann, la famiglia sente il bisogno di trovare uno sfogo alla vita cittadina. La soluzione è una piccola baita poco fuori il paesino di Todtnauberg, nella Selva Nera. È amore a prima vista. Nel minuscolo chalet che di proposito Elfriede sceglie di mantenere spartano, la famiglia Heidegger trascorre la maggior parte del suo tempo libero, diventando il luogo dei ricordi d'infanzia dei figli, specie del più piccolo, Hermann. Trascorrevamo tutti i Natali qui su, arrivavamo con i sacchi a pelo e gli sci e celebravamo insieme il Natale. Sul crinale della collina, verdissima d'estate e innevata con grazia dall'inverno tedesco, ancora si erge modestamente una piccola baita in legno con le persiane verdi che danno verso la valle. Intorno qualche albero rimane a rispettosa distanza, come se ancora avesse paura di disturbare il pensiero del grande filosofo. Nello studio della baita ha scritto molti dei suoi libri. Gli era più facile lavorare in questi luoghi. Scriveva seduto alla scrivania e ogni tanto guardava l'acqua dell'abbeveratoio attraverso la finestra. Heidegger non solo ama Todtnauberg, ma sembra stringere con il piccolo paese una specie di patto per la vita, con il quale sembra dichiarare: accoglimi e io mi farò plasmare dalle tue terre, dall'aria che qui si respira, dagli alberi e dai fiori che spuntano fra l'erba. In cambio, tuo sarà il mio cuore. Da questi campi trarrò ispirazione per il mio pensiero. L'intera immagine di Heidegger sembrava inventata a tavolino da lui stesso. La sua insistenza a indossare vestiti da paesano, i modi di parlare tipici della foresta nera, il tagliarsi da solo la legna, la baita solitaria su per le colline. Nessuno li avrebbe potuto sospettare il genere di lavoro e che uomo fosse una volta in città. Lo scrittore Georg Steiner pone l'attenzione su una delle caratteristiche principali di Heidegger, la scelta di attuare un'ulteriore germanificazione di se stesso secondo un progetto, forse idealistico e mitizzato, in cui il buon sangue tedesco va a braccetto con le giacche di lana cotta, gli scarponcini da escursione, il cappello di feltro e una ruvida spartanità che fa rinunciare lui e la sua famiglia a ogni genere di comfort nella baita. Per anni senza corrente elettrica e con solo le stufe a legna per riscaldarsi, gli Heidegger si circondano solo dell'essenziale per aderire al mito della classica famiglia ariana, tramandandoci il ritratto di una coppia di genitori seri e compunti con i loro figli. Due bei giovinetti dai capelli biondi e le guance soffuse di un vivace rossore regalato dalla vita all'aperto e dallo sport. Un ritratto che ha scatenato molte critiche, come quella dello scrittore Thomas Bernhard, che nel suo romanzo Antichi Maestri descrive Heidegger in questo modo. In Heidegger mi ha sempre disgustato tutto. Non soltanto il berretto da notte in testa e i mutandoni invernali tessuti a mano e stesi sulla stufa, che lui stesso si accendeva a Tottenauberg. Non soltanto il suo bastone da passeggio della foresta nera tagliato in casa, ma, per l'appunto, la sua filosofia della foresta nera fatta in casa. Tutto in quest'uomo tragicomico mi ha sempre disgustato. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. È fra le pareti di legno di Tottenauberg che Heidegger scrive la sua opera principale, Essere e Tempo. L'esperienza decisiva per il mio pensiero e al tempo stesso per tutto il pensiero occidentale, della meditazione sulla storia del pensiero occidentale, mi ha dimostrato che nel passato non compariva mai una domanda, la questione dell'essere. L'essere, il ragionamento sulla nostra esistenza nel mondo, è il nodo centrale dell'opera di Heidegger, un pensiero complesso che il filosofo Gianni Vattimo ci aiuta a comprendere. Essere e tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto, diciamo essere collocato in una certa situazione. La grande intuizione di Heidegger è che l'essere significa soprattutto esserci. In tedesco, Dasein. Di uomo Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per o per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, Geworfener Entwurf. Spiegare in poche parole un'opera come Essere e Tempo è impossibile, ma di certo è essenziale capire che è un libro che ha veramente segnato un'epoca. Ancora oggi è riconosciuto dai filosofi come una sorta di spartiacque fra le concezioni ritenute valide fino ad allora e la modernità del pensiero attuale. This work is a tour de force of philosophical writing. Questo lavoro è un tour de force filosofico. Leggendolo non si può che restare sbalorditi. Sotto il profilo storico è anche il momento in cui la fenomenologia venne messa in questione. È messa in questione in modo così radicale che divenne praticamente impossibile tornare alla fenomenologia e continuare con essa. La lettura di Essere e Tempo ha un grande impatto in Germania. Inizialmente scritto da Heidegger per il suo percorso accademico e dedicata ad Husserl in Rispetto e Amicizia, diventa presto un testo a sé stante, sostanziale, illuminante, come ci spiega il filosofo Andrew Benjamin. The moment one reads Heidegger. Nel momento in cui si legge Heidegger, la vita cambia. Ci sono molte ragioni per questo, ma soprattutto per tutto quello che ha a che fare con la potenza degli argomenti e per quella sensazione di novità, di non ci avevo mai pensato prima, che cambia il nostro modo di guardare alla filosofia. The way you view philosophy. Ma Essere e Tempo presto diventa un testo con una forte eco anche sulla società tedesca fra le due guerre mondiali. E non a caso. Fra le varie considerazioni espresse nel suo libro, Heidegger sottolinea anche quanto la maggior parte delle persone, soprattutto coloro che vivono nelle grandi città, perdano il contatto con la propria individualità perché forzatamente costretti a uniformarsi ai comportamenti delle masse. E per questo essi sperimentano una costante ansietà fino a giungere a vivere quella che Heidegger chiama una vita non autentica. Heidegger's existential point of departure in being and time. Gli studi sull'esistenza di Heidegger, in essere e tempo, soddisfavano i bisogni di una generazione che si era persa dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e per la quale domande sull'esistenza, su perché esistiamo, diventavano essenziali. Essere e tempo è un'opera che reca in sé i segni della crisi della società tedesca dell'epoca, grazie all'analisi e alla denuncia della spersonalizzazione dell'esistenza nel mondo moderno. Ma in Heidegger non c'è il passo finale, la capacità di tracciare un percorso di miglioramento politico o sociale. E questo, come vedremo tra poco, segnerà in modo inevitabile le scelte politiche future del grande filosofo. Where do we go from here? Where do we go? And is it real or just something we think we know? Where are we going now? Where do we go? Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1924. Siamo a Marburgo, nel cuore della Germania. È una piccola città di provincia, un po' noiosa, senza una gran vita sociale, se si esclude il piccolo mondo fatto di professori e studenti che gira intorno all'università. Il professor Heidegger, con il volto serio e concentrato sui suoi pensieri, l'attraversa ogni giorno per tenere lezioni a un gruppo di studenti che lo adorano e di cui bevono insaziabilmente le parole. In inverno spesso raggiunge l'aula con gli sci in spalla, mentre d'estate indossa sempre l'immancabile tenuta in loden con i pantaloni alla zuava che i suoi alunni chiamano la tenuta esistenzialista. Volontariamente o involontariamente diventa un personaggio, acquisisce uno stile tutto suo. In breve diventa la star intellettuale del piccolo paese. Le sue lezioni si tengono al mattino presto, ma questo non gli impedisce di raccogliere in poco tempo più di 150 studenti. L'atmosfera di quegli anni è facile da immaginare. Giovani entusiasti che discettano dell'esistenza, del mondo, della vita in lunghe conversazioni intorno a una buona birra tedesca nei pressi di una stube, la grande stufa che irradia calore fra le pareti di legno della stanza. In mezzo a loro un professore di poco più grande di loro, in quel periodo Heidegger ha meno di 40 anni, che guida e illumina i loro dialoghi. A volte questi incontri avvengono in maniera meno formale, a casa del filosofo, con Elfriede che ha preparato una torta e i bambini che giocano a nascondino fra le gambe degli studenti. Ma la maggior parte delle volte è la grande aula della facoltà di filosofia che ospita le brillanti lezioni di Herr Professor Heidegger. Fra i banchi dell'aula, in mezzo alle marsine nere dei giovanotti che seguono attentamente le lezioni, c'è da qualche tempo una macchia verde. Si agita, si sporge in avanti, si tira indietro, ma mai perde una parola del professore. Quella macchia verde è un bel vestito. Un vestito alla moda, elegante. È indossato da una diciottenne da poco arrivata dalla prestigiosa università di Königsberg, attirata dalla fama di Heidegger. Anni dopo questa ragazza scriverà in proposito. C'è un maestro lì. Forse il pensiero si può apprendere. La ragazza ansiosa di apprendere è una giovane ebrea figlia di una famiglia non osservante cresciuta a Königsberg, la città natale di Kant. Bella e volitiva, nella piccola Marburgo, è già diventata un'attrazione. Capelli corti, vestiti eleganti. Distrae la mente dei giovani aspiranti filosofi che per una volta sostituiscono nella loro mente i nomi di Aristotele, Leibniz ed Hegel con il suo. Hannah Arendt. Hannah Arendt. La cosa più incredibile in lei era la forza suggestiva che emanava dai suoi occhi. Virtualmente sembra di poterci annegare dentro e non uscire mai più fuori. È una descrizione molto romantica quella che ci regala uno dei primi fidanzatini di Anna, Benno von Wiese. Ma è pur vero che Anna non lascia nessuno indifferente, men che meno l'uomo che sovrasta tutti gli altri con la sua intelligenza. Cara signorina Arendt, questa sera devo tornare a farmi vivo con lei e a parlare al suo cuore. Tutto tra di noi deve essere schietto, limpido e puro. Soltanto così saremo degni di aver avuto la possibilità di incontrarci. Il fatto che lei sia stata mia allieva e io il suo insegnante è soltanto l'occasione esteriore di quello che ci è accaduto. Io non potrò mai averla per me, ma lei apparterrà d'ora in poi alla mia vita ed essa ne trarrà nuova linfa. Questa lettera è scritta da Martin Heidegger nel febbraio del 1924. Anna è diventata sua alunna da pochissimo, 2 mesi appena, e Heidegger la tiene d'occhio, la osserva misurarsi con i compagni in conversazioni brillanti, nelle quali riesce sempre ad azzittire tutti. La osserva imporsi con quel suo comportamento misto fra una grande sicurezza e una specie di attraente timidezza dovuta alla difficoltà di conciliare una crescita intellettuale straordinaria con la giovane età e la poca esperienza nelle cose del mondo. Da qualche tempo decide di invitarla nel suo ufficio all'università per parlarle. Lei gli si presenta con gli occhi bassi, molto lontana dall'atteggiamento sicuro ostentato al momento della sua ammissione al corso di filosofia, durante il quale si rivolse a un professore dicendogli: «Non accetterò alcun commento antisemita». La ragazza che si presenta nello studio di Heidegger mostra invece già i segni di un'ammirazione che sfocia improvvisamente in un'intensa passione. Secondo la sua biografa, Elizabeth Young Bruel, davanti al professore, la Arendt stenta ad aggiungere qualcosa oltre a qualche raro sì o no, mentre resta di fronte a lui con indosso un impermeabile e un cappello calato sugli occhi. Che nasca l'amore fra di loro sembra un avvenimento inevitabile, che entrambi accettano senza discutere. E la loro relazione in un attimo prende tutti i connotati della passione fra due persone di eccezionale carisma destinata a durare tutta una vita. Sapeva di stare con un uomo che aveva nei circoli intellettuali tedeschi la reputazione di una specie di sovrano segreto della filosofia, ma lei stessa era una donna notevole ed entrambi sembravano aver concettualizzato la loro relazione come una specie di evento mistico. Lei rimase attaccata per sempre ad esso, perché fu un'esperienza assolutamente formativa. Elizabeth Young Bruel ha ricostruito in maniera abbastanza precisa, seguendo le lettere rimaste del carteggio Heidegger-Arendt, l'inizio della relazione fra i due. Dopo questa prima lettera, che inizia con un formale «Cara signorina Arendt», dopo 4 giorni si passa a un semplice «Cara Hannah», e dopo 2 sole settimane una nuova lettera contiene passi che fanno credere all'inizio di una relazione intima fra i due. All'epoca Heidegger ha 35 anni e Hannah 18. Li separano non solo 17 anni, ma soprattutto razza, cultura, religione, per non parlare della moglie di lui e dei 2 figli. Per tutte queste ragioni, molti studiosi hanno immaginato che inconsciamente l'Arendt cercasse in qualche modo una figura paterna che al tempo stesso avesse bisogno di una forma di riconoscimento e approvazione per lei, donna ebrea, in una società ostile come quella tedesca. Qualsiasi siano le ragioni, la relazione con Heidegger resta per Hannah Arendt l'avvenimento che segna per sempre la sua esistenza. Un'esistenza cominciata nella lontana Prussia orientale 18 anni prima. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss. Paul e Martha Arendt sono una giovane coppia con alle spalle solide famiglie ebree. Paul è un ingegnere con un passato da donnaiolo e quando nasce la piccola Hannah il 14 ottobre 1906 i peccati di gioventù sembrano dimenticati da un pezzo. Ma il destino a volte può essere crudele e Paul muore di sifilide dopo pochi anni. Per la piccola Hannah è un grande dolore, aggravato dal nuovo marito della mamma che la bambina non ama. Il problema si acuisce quando Hannah inizia a dimostrare qualità intellettuali così superiori da mettere in soggezione il patrigno e le sorellastre. A 16 anni ha già letto molti testi fondamentali di filosofia e soprattutto Kant, a partire dalla Critica della ragion pura. Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre crescenti: il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. Questa frase di Immanuel Kant riassume bene quello che forse è il sentire più profondo della inquieta e appassionata adolescente nella quale si sta trasformando l'Arendt. Ho letto Kant e uno può chiedere perché lo hai letto, ma per me la questione è stata molto più: vuoi studiare filosofia o buttarti nel fiume? E questo non perché non amassi la vita, non per questo. Come dicevo, si trattava del comprendere, della necessità di comprendere. Eppure, nonostante in campo ci siano intelligenze fuori dal comune, la relazione che nasce fra Martin Heidegger e Hannah Arendt stupisce per i connotati da clandestinità piccolo borghese. Martin è morbosamente impegnato a non rivelare a nessuno l'affare, obbligando Hannah a tutta una serie di accorgimenti che lo scrittore Georg Steiner descrive molto bene in un articolo sulla stampa di qualche anno fa. Hannah potrà venire da lui a seconda che la luce del suo studio sia accesa o spenta. Allorché si incontrano in alberghetti fuori mano nel corso di uno dei suoi giri di conferenze, lei deve prendere un tram che non sia quello immediatamente successivo al suo. A prescindere dalla passione, le convenzioni vanno rigorosamente rispettate. Per Hannah Arendt il desiderio, con ogni probabilità, era al tempo stesso scatenato e sopraffatto dall'umiliazione. La stessa estate del 1924, mentre Heidegger è con la famiglia nella baita di Todtnauberg, Hannah scrive una poesia al suo Martin da Königsberg, intitolata Ombre. Perché mi dai la tua mano timidamente come se fosse un segreto? Vieni da una terra così distante che non conosci il nostro vino. Con tutta la sua intelligenza, il suo acume, il suo impeto conoscitivo, in questo momento Hannah è solo una ragazza di 18 anni, innamorata e lontana dal suo amore, divisa da lui non solo dallo spazio, ma dalle convenzioni, dal mondo e forse anche dalla filosofia. Per Heidegger sono gli anni della stesura di essere e tempo. Ogni momento libero è consacrato alla riflessione, alla scrittura. Fra l'amore e il suo lavoro, sceglie sempre quest'ultimo. Eppure è indubbio che i due amanti condividano una passione profonda che fa confessare Heidegger alla moglie che quello con la giovane ebrea prussiana è stato l'incontro più importante della sua vita. E fa scrivere anni dopo ad Hannah: il nostro amore è stata la benedizione delle nostre vite. Fra alti e bassi, la relazione fra i due va avanti per 4 anni, fin quando nel 28 si estingue per mancanza di futuro possibile. Nel frattempo, in uno dei punti bassi della storia, Hannah si trasferisce all'Università di Heidelberg, dove prosegue i suoi studi con Karl Jaspers. Dal suo canto, Heidegger si trasferisce all'Università di Friburgo, dove nel 1928 prende il posto nella cattedra di Husserl. Ma tutto l'amore di Hannah non può cambiare quello che sta per accadere, non solo ai nostri due protagonisti, ma anche al mondo per come essi lo conoscono. Heidegger crebbe come un cattolico molto conservatore in una zona molto conservatrice. Era un uomo di campagna, non molto a suo agio con la vita di città. Fra le rivendicazioni del nazismo c'era quella di un ritorno a una vita più semplice, insieme a una promessa di andare verso un mondo tecnologicamente più avanzato. Ecco, credo che questo insieme abbia avuto molta presa su Heidegger. Questa considerazione del professor Thomas Sheehan della Stanford University può forse in parte aiutarci a comprendere come mai con l'avvento del nazionalsocialismo Heidegger, invece di condannare o perlomeno dissentire, come la stragrande maggioranza degli altri intellettuali, i modi e i credo del nuovo regime, ne sia rimasto non solo affascinato, ma soprattutto coinvolto in modo totale. Nell'aprile del 33 Heidegger diviene il rettore dell'Università di Friburgo al posto dell'ultimo rettore che ha abbandonato la sua carica per protesta contro il regime. Un mese dopo il filosofo si iscrive al partito nazista. Quando tiene il suo primo discorso inaugurale come rettore, il 27 maggio del 33, sorprende tutti per la sua totale adesione al nazionalsocialismo. Il popolo tedesco deve scegliere il proprio futuro. E questo futuro è legato al Führer. Non solo io, ma tutti i suoi alunni rimasero senza parole. Non potevamo credere che una cosa del genere fosse possibile. C'è stata molta attenzione su questa cosa, ed è giusto così. Ci si chiedeva come ha potuto fare un simile errore. Tutti pensammo, è diventato pazzo. Il filosofo Hans-Georg Adamer ripercorre quei mesi convulsi in cui l'idolo di tutti gli alunni, il chiarissimo professor Martin Heidegger, il pensatore di essere e tempo, si trasforma nel braccio operativo del nuovo regime. Forse perché, in un certo senso, immagina onnipotentemente di poter rifondare l'università e la cultura tedesca sulle basi della sua personale filosofia. E mentre a questo scopo si fa nominare Führer dell'università, come rettore inizia a perseguire ottusamente il suo obiettivo, descritto in una lettera a un collega. Una trasformazione sostanziale dell'educazione scientifica, in accordo con le forze e le richieste dello Stato nazionalsocialista. Prima di emigrare a Parigi e poi negli Stati Uniti, Hannah scrive un'ultima volta al suo ex amante per chiedergli conto delle terribili cose che si dicono di lui in giro. Conto dell'abbandono di tanti colleghi ebrei, prima fra tutti l'ebreo Husserl, che per il dolore ne morirà poco tempo dopo. Conto di 1000 vergognose bassezze compiute ai danni dei suoi studenti giudei. Alla sua lettera lui risponde sdegnoso che sono tutte calunnie. Sono parole terribili, che dette da un uomo di tale ingegno appaiono ancora più agghiaccianti. Eppure Hannah non vuole capire, non vuole accettare l'evidenza, evitando ostinatamente di registrare quest'ulteriore delusione nei confronti di un amore che per lei è stato sostanza e vita. Destini incrociati. A Destini Incrociati sta per avvenire un incontro che può sanare delle ferite oppure protrarre un inganno. È la sera del 7 febbraio 1950. A Friburgo una pioggerella gelata illumina ogni anfratto della città, anche il più buio. Mille acini di luce sembrano voler stanare la verità una volta per tutte, rendere tutto più pulito, rinnovato. Hannah Arendt, appena giunta in un albergo della città, ha spedito un biglietto per richiedere la visita di una persona. La brillante studentessa di filosofia che nei primi anni 20 stupiva e ammaliava i suoi compagni all'università di Marburgo è oggi una donna di 44 anni, da poco cittadina statunitense, e di lì a un anno autrice del testo Le origini del totalitarismo, che diventerà fondamentale per la comprensione dei grandi regimi del XX secolo. Ma in quel momento è solo una donna che attende di capire se 25 anni prima ha compiuto un grande errore. Quando il cameriere ha pronunciato il vostro nome, è stato come se il tempo si fosse fermato all'improvviso. Il nome pronunciato dal cameriere è quello di Martin Heidegger, autore di uno dei testi fondamentali della filosofia contemporanea, Essere e Tempo, e 25 anni addietro, Amante, di Hannah Arendt. L'uomo, non troppo alto, con gli occhi piccoli e i baffetti ben disegnati sulle labbra sottili, entra nell'albergo alle 18:30 e quando ne esce, Hannah ha dimenticato tutto. Dimentica che in quei 25 anni Heidegger è diventato un membro del partito nazista, che per inseguire un potere da quattro soldi, quello conferitogli dalla carica di rettore dell'Università di Friburgo, mantenuta con l'appoggio del regime, egli ha abbandonato colleghi e amici ebrei o semplicemente dissidenti, che in nome della sua idea conservatrice di una Germania metafisicamente bucolica, ha permesso che il regime di Hitler si fregiasse del suo nome e delle sue dottrine. Che anche dopo l'evidenza dei campi di concentramento e dell'olocausto, il filosofo non ha mai sentito l'urgenza di abiurare le sue scelte politiche e di fare ammenda. In breve, dimentica che l'uomo Heidegger è infinitamente più piccino e gretto dell'Heidegger filosofo. Un tedesco prono verso il sentimentalismo, a volte nella sua forma più kitsch, ma che in tutta la sua vita non ha mai conosciuto un momento di generosità e di amore disinteressato verso gli altri. Forse Hannah dimentica o forse non vuole vedere. Ha bisogno di non tradire se stessa e quello che ha amato. Ha bisogno di continuare a coltivare la certezza che il suo è stato un incontro esistenziale, formativo. Heidegger, intelligente, scaltro, sa come rinfocolare questa certezza. Lui memorizzò l'incontro in una poesia, mentre lei disse che la conversazione sembrò essere senza tempo, il che dimostra quanto la loro relazione fosse ancora molto forte. Lei riporta quanto lui fosse dispiaciuto per quello che era successo con il partito nazista, come se non avesse davvero capito cosa fosse successo. Hannah scambia delle lettere con Karl Jaspers, in cui sembra semplicemente scuotere le spalle e dire: è il suo carattere, è fatto così, non ci si può far niente, è un pazzo. E in un certo senso lo era. La biografa di Hannah Arendt, Elizabeth Young Brewell, mette a fuoco la convinzione che Arendt nutre nei confronti del suo ex amante. Egli non può essere stato consciamente un sostenitore del nazismo, deve essere stato pazzo, non deve aver compreso a fondo ciò che stava accadendo. Tutte le cose atroci che anche in America ha sentito dire su di lui non possono essere vere, e quando il 4 maggio riceve una lettera di lui, che fra le righe le recita il mea culpa, decide di aiutarlo incondizionatamente. Hannah, ti saluto dalla spiacevole distanza di 3.000 miglia, l'abisso della nostalgia. Eppure ogni giorno sono felice che le cose siano così come sono. Tutto doveva riposare per un quarto di secolo, come un chicco di grano nel solco profondo di un campo, riposare in una maturazione dell'assoluto. Mia intimissima amica, devi saperlo. Pensosamente e teneramente, niente è dimenticato, ma è proprio il contrario. Tutto il tuo dolore, scarsamente considerato, e tutte le mie mancanze, senza volerle dissimulare, risuonavano da un lungo scampanio della campana del mondo dei nostri cuori. Tuo Martin. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't let me in. In una Germania postbellica che tenta di rimarginare le proprie ferite, individuando le colpe ed emettendo le sentenze, Heidegger è interdetto dall'insegnamento mentre viene messo sotto processo per denazificazione. E allora quale alleata migliore può trovare al suo fianco di un'intellettuale ebrea in prima linea nella denuncia dei totalitarismi e dei soprusi verso gli ebrei? E neanche per un minuto pensa di tradire questa aspettativa. Lavora per ammorbidire le posizioni degli intellettuali americani, depone al processo e chiede al suo vecchio maestro, un riluttante Karl Jaspers, di deporre anche lui in favore di Heidegger, nonostante quest'ultimo non abbia fatto nulla per aiutare l'amico sposato a una donna ebrea. Grazie agli sforzi di Anna, Heidegger viene reintegrato nelle sue mansioni, anche se sceglie di restare defilato dal mondo accademico. Si rivolge alla poesia, alla contemplazione. Nonostante i suoi trascorsi politici, nessuno può negare la potenza del suo pensiero filosofico, la novità delle sue teorie, il prestigio del suo status di pensatore noto in tutto il mondo. Anna torna in America. Nel 1957 diventa professore di ruolo in università prestigiose come Princeton e Berkeley. Nel 1961 viene invitata dalla rivista The New Yorker a Gerusalemme per seguire il processo contro Eichmann, il braccio armato della soluzione finale degli ebrei per conto di Hitler. Il resoconto del processo diventa un libro, La banalità del male, che diventa un classico. In esso Arendt annota quanto il male spesso sia compiuto da persone normali, uomini che applicano le regole senza riflettere sul loro contenuto, quando a volte le circostanze impediscono di riflettere, di pensare, di accorgersi di quando si opera il male. Il male non possiede né profondità né una dimensione demoniaca. Può invadere e devastare tutto il mondo perché cresce in superficie come un fungo. Esso sfida, come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua banalità. Solo il bene ha profondità e può essere integrale. Il grande errore di Hannah è stato quello di aver creduto che in presenza di un pensiero così profondo come quello del suo maestro e amante fosse impossibile non poter riconoscere il male che faceva, fornendogli in questo modo l'alibi di un mea culpa che invece da parte di Heidegger non ci fu mai completamente. In solo un'occasione si permise di ascoltare i dubbi del suo cuore esprimendosi con Jaspers in questo modo. Egli mente sempre. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is